Sono Lorenzo Fortunato della Stana e saluto gli amici di Gironamo e mi avete rotto le palle. Amiche e amici del ciclismo del Giro d'Italia, ma anche nemiche e nemici, perché noi siamo qua per tutti, non ci facciamo problemi, siamo aperti, amici del Giro d'Italia, amici della bicicletta, amici dei buffet, amici del teatro, delle società filarmoniche e drammatiche, perché oggi siamo all'interno del Teatro del Popolo di Rapolano, ma all'interno nel senso che proprio siamo seduti sotto un lampadario, non so come si chiami tecnicamente, Marta Bacigalupo, tu che te ne intendi di lampadari? Con delle gocce in cristallo. Sotto un lampadario di gocce di cristallo, circondati da questo anfiteatro di palchetti presidenziali, e non riesco a non immaginare questo teatro pieno di gente che non fa altro che gridare e scandire il nome di Michele Calisto Pelacci. Buongiorno. Buongiorno, che bella giornata di Giro d'Italia anche oggi. Bella giornata, bellissima giornata, bella giornata anche per uno stanchissimo, tanto quanto me, Leonardo Piccione. Sì, sono molto stanco, ma sono ancora in piedi, anzi poggiato a un tavolino in questo teatro e sì, concordo, bella tappa, bella giornata e direi di cominciare subito a parlarne. Anzi prima, aspetta. Volevo dire, perché queste persone che all'inizio della puntata ci introducono sono sempre così, come dire, annoiate, infastidite dalla nostra presenza? È una bella domanda, noi gli chiediamo di darci la linea, non lo so, ringraziamo illustri Lorenzo ospiti Fortunato, che però non sono, cioè quello che mi sembra di aver capito è un po' un fil rouge di questo 2024, che è una stagione in cui la linea al ciclismo non si dà volentieri. Forse colgo quindi questo riferimento. Ringraziamo comunque il tale signor Fortunato che ci ha introdotto per questa puntata e lo risentiremo più avanti, anche perché esattamente, e lanciamoci in questa cavalcata nelle praterie del Giro d'Italia con una nuova puntata riguardante la tappa conclusasi a Rapolano Terme, nome veramente complicato. Io non so se anche oggi è previsto un acrostico. È previsto anche oggi ed è previsto con entrambe le parole che compongono il nome di questa località. Ci ho provato almeno. Allora abbiamo Rapolano Terme. Rincorrersi allegramente per ore, lambendo alberi, nuvole, oliveti. Tutto è rimandato, due punti. Movistar esulta. Pazzesco, bravo Leonardo. Si sente? Si sente l'applauso. Va bene. Sono in un teatro. Sono in imbarazzo. In un teatro, poi. Ma rompiamo l'imbarazzo lanciando adesso la sintesi di tappa, come al solito, le parole. Com'è la canzone? Parole d'amore? Sillabe d'amore di Michele Pelacci con riassunto della tappa numero 6 del Giro 2024. Prime fasi di gara davvero a tutta. Dopo una prima ora a 52 di media, ancora niente fuga. Ci provano in tanti, tra cui De Marchi e Honoré. Ma la fuga buona è composta da Trentin, Groves, Fiorelli, Alaphilippe, Pelayo Sanchez, Luke Plapp e, ultimo ad aggiungersi, Andrea Vendrame. Il gruppo li lascia finalmente andare in pochi chilometri, proprio mentre iniziano le montagne russe, anche sterrate, da Volterra in poi. Arrivano a oltre 3 i minuti di vantaggio. Plapp è virtualmente maglia rosa, la UAE sembra felice di lasciargliela, ma la Ineos fa corsa dura sugli sterrati con Sheffield e soprattutto Arensman. Il gruppo si rifà quindi sotto a mezzo minuto circa, ma non vengono ripresi in 3, nemmeno da un tardivo attacco di Andrea Piccolo. Sono Pelayo Sanchez, Luke Plapp e Julien Alaphilippe. Questi si giocano la vittoria di tappa sul traguardo di Rapolano Terme. Qualcuno ha fatto la battuta con Plappolano. Andiamo avanti. A spuntarla in modo piuttosto sorprendente è Pelayo Sanchez. Poco da segnalare invece per la classifica generale, se non la caduta e i molti minuti di ritardo accumulati da Damiano Caruso. Sorprendente non per tutti, perché ieri è stato nominato in questo podcast per merito di Fran Muñoz, che aveva suggerito a Marta di parlare con Pelayo Sanchez il prima possibile. Ce lo siamo fatti sfuggire, adesso è diventato famoso e tutti vorranno parlare con lui. Però ieri è stato citato Pelayo e oggi ha vinto. Ha vinto di nuovo la fuga per il secondo giorno consecutivo. Ordine d'arrivo per riassumere il tutto: Pelayo Sanchez su Alaphilippe e Plapp. Quarto Andrea Piccolo e poi a regolare il gruppo Jonathan Narváez della Ineos, che era il favorito in caso di arrivo di gruppo ristretto. Sesto Luca Majek della Jayco, settimo Hermans della Alpecin, ottavo Schulz, nono Dani Martinez, decimo Alexei Lutsenko. Tutto invariato in classifica generale, quindi Tadej Pogacar è ancora in maglia rosa, forse non per la sua gioia, ma ne parleremo. Secondo è Geraint Thomas a 46 secondi, terzo Dani Martinez a 47, qui quarto e quinto la solita coppia composta da Kian Uijdebroeks e Einer Rubio a 55 e 56 secondi. Oltre il minuto di ritardo da Pogacar, Lorenzo Fortunato, Juanpe Lopez, Jan Hirt, Alexei Lutsenko e decimo Esteban Chaves. Luke Plapp ha guadagnato 6 secondi ed è adesso quindicesimo in classifica a 1,57 da Pogacar e ha detto che recuperare posizione in classifica era uno dei suoi obiettivi del suo attacco di oggi, della sua fuga di oggi. Metà era l'obiettivo guadagnare minuti, metà vincere la tappa. Uno dei due gli è riuscito, l'altro no. Segnalo anche le due posizioni guadagnate da un rigenerato Romain Bardet, che adesso è diciottesimo a 2 minuti e 33. Da Pogacar, stesso ritardo di Domenico Pozzovivo. Michele ha già detto di Caruso, ha perso 28 posizioni, ora è 44esimo a 17 minuti, più di 17 minuti da Pogacar. Non è partito stamattina Florian, detto Florindo Lipovic della Bora. Avevo preparato due pagine intere di domande da fargli, ma anche questa intervista andrà fatta un'altra volta. Marta, tocca a te, perché con la nostra giromanzia dobbiamo introdurre i temi della giornata. Qual è la carta che ci aiuta? Tocca a me, solo ora tocca a me. Vorrei dirvi che, scusate, ma oggi vorrei essere chiamata l'eroica, visto che ho guidato sulle strade bianche per colpa di Pelacci, che ha attuato la tecnica Tom Sawyer, ovvero sono sicura che tu vorresti proprio guidare su queste strade. Quindi sì, però tornando alla giromanzia... Tanto che appena entrata in teatro hai agguantato una corona e te la sei messa in testa. Per credo di meritarla tutta. C'è anche un'auto-incoronazione. Esattamente, in questa, visto in che voi non mi incoronate, mi incorono da sola. Quindi oggi mi sento molto più giromante del solito. Allora, la carta di oggi la tenevamo in serbo, è una carta che potrebbe far tremare alcuni più inquietati di voi, ma la carta è il tarocco dell'arcano tredicesimo, l'arcano della morte. Potrebbe sembrare una cosa spaventosa e invece no, potrebbe. Invece è un tarocco, è un false friend, come si suol dire, perché girato nell'altro senso ci riporta a un significato super positivo. Infatti è il tarocco della trasformazione, del cambiamento radicale, ma soprattutto del rinnovamento essenziale. È la fine di qualcosa indispensabile per aprire un nuovo capitolo. Quindi a chi facciamo riferimento, ovviamente, ma a un redivivo Lulu, che è una grande gioia vedere comunque far bene oggi, e anche abbiamo avuto segnali positivi, quindi a un certo punto sembrava la tappa veramente dei trasfigurati e dei resuscitati dal nostro Bardet. Quindi è un'ottima situazione. Addirittura chiudo dicendovi che è la carta che significa la persona che ricostruisce la sua esistenza. Boom! Ah però, mica poco. Non so se Pelaio oggi ha ricostruito la sua esistenza. Pelaccio, cosa ne dici? Io l'ho visto molto contento in conferenza stampa. ovviamente. No? Però è proprio una bella presenza. Quando Benjamin Thomas ieri, Pelaio oggi, insomma, due che vincono poco, si prestano tantissime domande, sono molto sorridenti. In un inglese anche stentato, Pelaio è stato simpatico. Vincono poco? Non aveva mai vinto, addirittura è la sua prima vittoria. Io oggi ho rivisto una scena che ci tengo a ricordare a Marta soprattutto, che è il finale di tappa di Crans Montana dell'anno scorso al Giro d'Italia. Fuga 3 con un corridore francese che aveva bisogno di una vittoria in un grande giro, che non la otteneva da un po', e lì probabilmente pronto a vincerla, ma viene anticipato da un Movistar nel finale. Allora fu Einer Rubio, quest'oggi è stato Pelaio, e allora fu Thibaut Pinot. Maledetto Einer Rubio, in quel momento dal mio divanuccio... Povero Einer. Sì, no, certo, però dal mio divanuccio mi sono un po' intristita, per dirla con un eufemismo. E però sì, la Movistar, diciamo che si è presa questo ruolo di guastafeste dei corridori francesi. Pensate che Alaphilippe, dopo il mondiale di Leuven nel 2021, ha vinto una tappa al Giro di Vallonia, una al Giro dei Paesi Baschi e quest'anno una tappa al Delfinato, che insomma sono tre vittorie di buon rispetto per un medio corridore. Per un grande campione come Julian Alaphilippe forse è un po' poco, ma siamo contenti di rivederlo qui, così come nota di colore che non c'entra niente, oggi è tornata la vittoria anche Mark Cavendish, che ha vinto la volata in Ungheria. Sì, è un arrivo che qualche anno fa, un arrivo a tre che Alaphilippe avrebbe dominato qualche anno fa, adesso ha bisogno di ritrovare la confidenza con la vittoria e anche con le tattiche nel finale di gara. Il più intelligente e furbo è stato Pelaio, che a un certo punto si è proprio allargato dall'altro lato della carreggiata per fare in modo di trovarsi terzo nel lancio della volata e far passare obbligatoriamente Alaphilippe davanti in seconda posizione. Pelaio voleva lanciare la volata per ultimo, notoriamente in quelle situazioni tatticamente è la condizione migliore, e ci è riuscito, ha avuto la meglio dal punto di vista proprio della scelta tattica. Ma infatti in conferenza stampa ci ha addirittura detto: sì, ero, come dire, intimorito, un campione come Alaphilippe, però ero anche molto sicuro di me, ha detto. Sì, e va sottolineato, come ha detto a chiunque, sì, anche già nelle interviste a caldo, quanto per lui sia stato un onore arrivare a giocarsi la vittoria con uno come Julian Alaphilippe. Per cui penso che tutto sommato per Alaphilippe, è chiaro che ci sarà rimasto male. Io non so se qualcuno di voi ha sentito dichiarazioni di Alaphilippe, non so nemmeno se ne ha rilasciate. Scusate, ma quasi come per me è stato un onore riuscire a tirare fuori Pelacci dalla doccia questa mattina, che era intrappolato. Ma questo è un argomento che non affronteremo in questo podcast e lo lasciamo al massimo in fascia protetta, non lo so. Credo invece che in ogni caso questa sia una giornata che per uno come per Pelaio è una giornata chiaramente trionfale, ma per uno come Julian Alaphilippe è una giornata che forse adesso brucia un po', perché immagino che insomma ci tenesse a vincerla e forse non era l'avversario con cui pensava di perdere. Però credo che abbia dato tanto, anche questi attestati di stima io penso che alla lunga facciano molto piacere. Era bello pimpante già questa mattina nell'area dei bus, e in tutto questo Giro d'Italia Alaphilippe ha un atteggiamento positivo che oggi abbiamo visto riflesso sulla strada dall'inizio della tappa, perché questo è un elemento anche importante. Alaphilippe ha fatto parte, è stato nel vivo di questa tappa dall'inizio, quindi una giornata positiva tutto sommato per lui, ma una giornata positiva e voglio dire difficile. I corridori erano molto stanchi al traguardo, abbiamo notato, ci siamo parlati con Michele, anzi Michele mi ha detto: guarda, hai visto come sono le facce oggi dei corridori. La cronometro di domani forse riserverà delle sorprese anche per questo, ma non corriamo, non mettiamo il carro davanti ai buoi. Non vorrei dire, ma le nostre facce non è che siano troppo meglio delle loro. È vero, ma parliamo adesso un po' di quello che è successo tra gli uomini di classifica, o quello che non è successo tra gli uomini di classifica, che non si sono mossi in prima persona, tranne Bardet, se vogliamo considerarlo uomo di classifica. Però le squadre, le scelte delle due squadre principali, la Ineos e la UAE, parlano e ci dicono di qualcosa, no? Di cosa pensano i capitani. In particolare cosa pensava o voleva oggi Tadej Pogačar. Abbiamo avuto l'impressione, anzi è stato detto proprio esplicitamente, che la UAE volesse perdere la maglia rosa oggi. Non dare troppi minuti a Plapp, che è un corridore che si sa difendere nelle tre settimane, però l'idea era quella di lasciare andare la maglia. La Ineos si è opposta, probabilmente per provare a giocarsi la tappa con Jonathan Narváez, che poi è stato colui che ha regolato i big nella volata del gruppo, insomma, superstite, però con l'obiettivo a fine giornata di non aver vinto la tappa, ma aver lasciato la maglia rosa a Pogačar, che può essere anche qualcosa che lui non voleva in questo momento. Sì, poi Pogačar stesso ha detto che tanto se avesse perso la rosa sarebbe tenuto la maglia blu, per cui avrebbe dovuto fare le premiazioni e tutto quanto, però già ti togli la stampa, ti togli tante cose, per cui immagino che un piccolo vantaggio ci fosse, veramente piccolo, perché se anche avesse ceduto la maglia rosa oggi Pogačar, dai, l'avrebbe ripresa domani a crono, nel senso, neanche dici un giorno faccio riposare la squadra, domani c'è a crono, per cui non so veramente quale potesse essere chissà il... chissà quei calzoncini blu come sarebbero stati. Quale potesse essere, sì, forse, ecco, forse voleva perdere forse la maglia, voleva... per una questione cromatica, per cambiare colore. O forse semplicemente non voleva venire a parlare con noi oggi in conferenza stampa e si voleva saltare questa incombenza che invece spetta al leader della classifica generale, ecco. Ha avuto anche un piccolo imprevisto nel lancio del bouquet, non so se avete visto questo video, gli è venuto proprio male il lancio del bouquet che è sì, caduto. Ho visto il video, però si vede solo lui che lo lancia, non ho capito questo bouquet dove è andato a finire, forse Marta era presente. Io e Pelami eravamo proprio sotto, io speravo di beccare almeno quel bouquet, che ai matrimoni non lo becco mai, ma gli è rimbalzato in pratica, è caduto e lui con un gesto di stizza, vabbè, scherzoso, l'ha lasciato, ma poi è stato tirato sulla folla adorante comunque. Ma chi prende il bouquet della maglia rosa cosa... Cioè, il matrimonio è tipo quello dopo che si sposa. C'è una classifica di chi... O è, o è quello dopo che veste la maglia rosa. Quindi ha cercato di lanciarlo a plap, probabilmente. Questo bouquet non ci è riuscito neanche in questo caso. E, tornando a quello che dicevamo prima, invece io... Se posso, mi fido poco di questa cosa della Ineos che ha tirato così per fare la tappa con Narváez. Io penso che l'interesse è così, a punzecchiare Pogacar. Hai capito che Pogacar vuole cedere la maglia, ti punzecchio, invece te la faccio tenere, è qualcosa. E anche comunque a mettere fatica nelle gambe, perché... Quindi per chi tira la Polonia? Per chi tira la Polonia non lo sappiamo. La Ineos, io credo abbia tirato per la Ineos, anche se mi permetto di dire che nel finale, quando si è... accesa un po' la corsa in quel suo e giù del finale, quelle ultime due salite, la salita quella dura di Serre, Rapolano Serre o Serre di Rapolano, non mi ricordo come si chiamava, e quest'ultima verso il rettilineo finale, io non ho visto un Thomas proprio pimpante, poi non sono neanche, insomma, cioè non sono quelle salite che fanno la differenza, però ecco, magari a mettere, sai, tiri tanto, tiri forte, oggi sei andato fortissimo per mettere fatica nelle gambe degli avversari, ma la fatica la metti anche nelle tue di gambe. È entrato nel track della conferenza stampa Pogacar dicendo le cose stanno un po' sfuggendo dal controllo, parlando, riferendosi probabilmente al fatto che tantissima gente, tantissimi autografi anche dopo la tappa, tantissime interviste, persone che chiedono domande uguali, prima le radio, poi le TV, poi i giornalisti. Vi do però una statistica interessante secondo me, perché su 81 giorni di corsa... Pelacci Analytics. Esatto, sta arrivando. 81 giorni di corsa, Geraint Thomas contro Tadej Pogacar. Il gallese è arrivato davanti allo sloveno solo 6 volte. Oggi è una di queste. L'ultima volta, quando fu, ai mondiali, a Crono del 2023. Che anche, ha citato Pogacar, l'ultima volta che ha gareggiato in una prova a cronometro. Eh sì, in effetti è tanto tempo che non corre a cronometro Pogacar. Prima di arrivare alla cronometro, sì, lui mi sembra, come dire, quasi... incompreso, si sente incompreso in questo giro, si attacca tutti i giorni a qualcuno da ridire, se adesso si è preso un paio di giorni di riposo qualcuno da ridire perché Pogacar sta fermo e le domande della stampa, è un po' in una situazione, come dire, non difficile, perché non è difficile, però non, secondo me non si sta divertendo troppo fino a questo punto. È una tipica Calimero situation. Abbastanza. Posso dire che a me oggi Pogacar mi ha ricordato le dichiarazioni di tanti politici italiani. In che senso? A un certo punto ha detto qualcuno voleva prendessi la maglia rosa il primo giorno, qualcun altro no, qualcuno voleva che salvassi le energie per il tour, qualcun altro no, qualcuno voleva questo, qualcun altro quelli no. Quelli che fanno insomma, gli elenchi politici. Non si può soddisfare tutti. Un po' come sì, il politico che viene un po' incalzato e cerca votata di buttarla. Votata dei. Forse magari si candida alle elezioni europee, non so, no. Chiederemo ai giornalisti sloveni o non lo so, ci informeremo in altro modo, visto che siamo anche... abili a recuperare informazioni su Tadej Pogacar. Ma prima di passare al Pogacario, che so che è il motivo per cui tutti siete qui sintonizzati su questo podcast, farei un breve intermezzo perché oggi, per il secondo giorno consecutivo, è arrivata la fuga. La parola del giorno. 今日の一言。フーガ。逃げ。逃げ。 Il sensei è sempre sul pezzo dell'attualità. Ringraziamo Shimano che ci ha messo in contatto con questo maestro del ciclismo e del vocabolario, Michele Pelacci. Fuga. Iene. Sembra un po' tipo Ines, ma senza la S finale. Come bicicletta, cos'è che sembrava? Bicicletta sembrava Fidenza. Cioè, allora ci prendiamo l'impegno che almeno una per settimana di giro, facciamo così, oggi tappa numero 6, una parola giapponese per settimana riusciamo a impararla? Ho imparato velodromo ieri, pista! Ok, va bene, sei bravo a salvarti, hai la tua abilità così come Marta ha l'abilità, quella che tutti le invidiano, che è quella di scoprire informazioni. Sì, perché forse l'obiettivo di Tadej Pogacar in questo giro è farci impegnare per capire com'è lui veramente, perché poi lo vediamo da diversi anni, sempre così sorridente, no? Questo eterno ragazzo, però lo conosciamo veramente, sta cambiando questo ragazzo, quindi forse lui ci sta stimolando a conoscerlo meglio, a capire davvero che persona è, che personaggio, che ciclista è, e quindi è il momento perfetto per scoprire la curiosità o la nozione di oggi che Marta ha scoperto attraverso le sue fonti. La mia intelligence, le mie fonti che aumentano vertiginosamente giorno dopo giorno. Ma oggi sono andata a parlare con una persona speciale, con un altro corridore del gruppo, che sappiamo essere incredibile, udite udite, uno dei motivi principali, autore di uno dei momenti principali per cui Taddei si è innamorato del ciclismo. Le cosiddette sliding doors, no? Esatto. E allora andiamo proprio a sentire il sesto classificato di giornata, Luka Mezcek. Hi Luka, nice to meet you. I wanted to ask you something. We know that Tadej Pogacar like fell in love with cycling looking a sprint in Trieste in I think 2014. Yes. Can you tell us something more about that sprint? Yeah, it was a nice memory. We had a nice local lap in Trieste, very close to Slovenia, and I remember 1K to go, I was really close to the crash, but I found a way out and I opened the sprint a little bit far back, but yeah, came nicely to the front from the slipstream, and yeah, the rest is history, good memories. We know that maybe you have a newborn and it's easy to cope with being a dad and a rider. Yeah, like I'm a lot of time on the road, so they also visit a lot of times me because maybe 220 days a year we are on the hotels and stuff, so it's part of our job, and it's they were born this way, that dad is not home. Do you hope that they are going to be something like sport guys or? No, I don't have any specific hopes to push them in sports. But surely I will support any decision they have. So thank you very much. I leave you to your race and good luck. Enjoy Italy. Thank you very much. Bye. Allora, come dicevamo, appunto, ho chiesto a Luka proprio, gli ho detto che sapevamo che Pogacar si era innamorato del ciclismo guardando la sua volata a Trieste del 2014 e gli ho chiesto di raccontarci qualcosa di più di quel momento. E lui ci ha risposto che certo è un bellissimo ricordo, c'era un bel circuito locale a Trieste, quindi molto vicino alla Slovenia, e si ricorda che ad un chilometro dalla fine era molto vicino a una caduta, ma è riuscito a trovare una via d'uscita e ha lanciato lo sprint, forse un po' troppo indietro, ma è riuscito ad arrivare bene davanti in scia e il resto è storia. Ha detto che sono dei bellissimi ricordi. Poi, così, a parte il Pogacario, gli ho voluto chiedere anche, so che è diventato nuovamente padre da poco, gli ho chiesto come sia, se sia difficile cavarsela essendo un papà e un corridore ovviamente. Mi ha detto di sì, che è in giro per moltissimo tempo l'anno, che la famiglia lo va a trovare spesso perché magari è addirittura in trasferta circa 220 giorni all'anno, e che è parte del loro lavoro di corridori, che e i figli sono nati in questo modo e quindi vanno avanti così. Poi io per chiudere gli ho chiesto se spera che diventino dei tipi sportivi. Mi ha detto che no, non ha speranze particolari di spingerli nello sport, ma che sicuramente supporterà ogni loro decisione. E quindi poi ci siamo salutati dicendogli appunto goditi l'Italia, che sappiamo che gli piace molto. Capelli disidratati? No. Capelli inaccettabili? No. Capelli danneggiati dai brutti pensieri? No. I laboratori della Cetix hanno messo a punto uno shampoo che lava davvero i capelli. Pulizia di pulito. Uno shampoo che fa schiuma per lavare i capelli. Profumo di profumo. Uno shampoo che sembra shampoo perché è shampoo. Bidono shampoo. Bidono shampoo. Con una nuova formula più genuina. Una confezione a chilometro zero. Un costo accessibile se hai un lavoro che non sia sottopagato. E shampoo! Bidono shampoo. Un prodotto irrinunciabile. Un prodotto deluxe. Cavolo, da quando lo uso sono migliore! Bidono shampoo. Se lo usi, migliori. Migliori. Io questa cosa che i brutti pensieri potessero così trasmettersi ai capelli non la sapevo. Finalmente ho capito che cosa ha desiderata la mia chioma. Ma non è che quindi... sappiamo bene che il rendimento di Tadej Pogacar è figlio delle pinne di ciuffi che gli escono dal casco. Non è che è legato a quando usa e quando non usa bidon o shampoo. Ma infatti rende migliori perché questa pinna dal casco è uscita di recente anche a Filippo Ganna, che sta andando bene, magari vince domani. Per cui magari veramente è così. Può essere, può essere. Quindi il ruolo dello shampoo nel ciclismo non è mai stato sufficientemente... lodato, non so se... C'è una squadra che è uno... È vero, c'è una squadra, hai ragione. Per cui sì, no, in effetti c'è chi lo loda, poi un giorno non so... Chissà, magari Luca Pedalini un giorno farà un disco sullo shampoo ciclismo. Non sappiamo, noi ci aspettiamo sempre sorprese da lui, non oggi. Oggi non è una giornata di sorprese tante cose, tanti incontri, tanti chilometri, tanti incontri particolari, divertenti, curiosi sulle strade del Giro come tutti i giorni. Zero cornucopie oggi, ci teniamo a precisare. Non abbiamo neanche incontrato nessun nostro lettore e ascoltatore. Qualche urla quando passa il furgone al vento, sono un vostro lettore, c'è, per cui... Però non abbiamo avuto contatti diretti, non abbiamo avuto quindi forniture di cibo, avremmo potuto approfittarne per rifornirci di cibo in un luogo particolare dove ci siamo fermati oggi, ve lo faremo sentire tra poco, ma è un qualcosa che ci è stato suggerito da un ascoltatore, no? Sì, Filippo Martelli mi ha scritto ieri su Twitter, mi ha detto: ehi, dovreste fermarvi da Dario Pieri, che è una locanda proprio sul percorso di gara, dove fa grandissime carni, diciamo, soprattutto la cucina toscana è nota, no? Per avere carni rosse buonissime. I pici. Pazzeschi. Noto era anche l'appetito di Dario Pieri da corridore. Corridore comunque, una carriera forse senza grandissimi picchi, ma con tanti piazzamenti importanti. Stiamo parlando di un professionista che a cavallo tra i 90 e i 2000, più o meno, seconda parte dei 90, è stato capace di arrivare secondo a un Giro delle Fiandre, secondo a una Roubaix, quinto a una Sanremo, insomma... È un altro di quei corridori che se ce li avessimo oggi in Italia probabilmente li candideremo alla presidenza della Repubblica. Ha tre vittorie in carriera, una è Harald Becke e lo sentiamo. Allora, subito fuori Volterra ci hanno segnalato, come si chiama quello che ce l'ha segnalato? Non lo ricordo, ma, ma presto lo ricorderemo. Presto lo ricorderemo, ci hanno segnalato che c'era il ristorante di Dario Pieri ed è vero. Confermi? Confermo, io sono Dario Pieri e questo è il mio ristorante. Purtroppo non si può vedere, ma... Metteremo le foto sui social, bene, non ti preoccupare. È bellissimo però. Grazie. Si chiama questo ristorante? Locanda il Boschetto. E dove ci troviamo esattamente? Ci troviamo esattamente tra Volterra e Colle Valdelsa, sulla Volterrana, al chilometro 49,50. Che è esattamente sul percorso di tappa di oggi. Sì, esattamente sul percorso. Ma c'entri? Ho anche addobbato un pochino, visto? Hai anche addobbato, ma la tappa passa di qua per salutarti? No, non credo, non è un caso. Tu l'hai scoperto dopo. L'ho scoperto dopo. Hai trovato una nuova vita dopo la tua vita in bicicletta e ti sei dato a regalare piacere dal punto di vista alimentare. Sì. Prima me lo regalavo per me perché io sono un mangiatore, come vedi, insomma, e poi sì agli altri, tutta toscana, cucina tipica toscana, dalla bistecca ai filetti, al peposa, alla ribollita, tutto quello che riguarda, diciamo, la trippa. Il tuo piatto forte qual è? La trippa. Ma tu sei il cuoco? Io sono il grigliatore, però faccio delle preparazioni, faccio i pici, mi diletto un po' a fare tante cose. Adesso, se andiamo avanti così finisce che ci fermiamo a pranzo e ce ne freghiamo della tappa. Ma magari. Avessimo tempo, ma magari lo diciamo anche noi. Van Petegem non è ancora venuto al ristorante? No, non è ancora venuto, ma se viene io lo accolgo a braccio. Lo invitiamo? Sì. No, non è che ti guardi alle spalle per vedere se arriva? No, assolutamente. Allora, portiamo il tuo invito. Vai, andiamo a cercare, non so con che squadra collabori oggi, so che collaborava ancora con qualcuno. Squadra belga, sicuramente. E noi andiamo. Ti ha invitato a cena, a pranzo, a dormire, non c'è problema. Senti, quanto è stato liberatorio abbandonare una carriera di diete e allenamenti e finalmente godersi. Ma liberatorio, liberatorio per quanto riguarda sì la vita normale, però liberatorio no, perché comunque a me piaceva il ciclismo e mi manca, però... Non... Ma dal punto di vista alimentare? No, alimentare, vabbè, sì, ho preso subito 20-25 kg appena... ora sono ben 50, però va bene così, dai, sto bene, non bevo, non fumo, mangio solamente. In bicicletta ci vai ancora? No, ancora no, ancora devo un attimo metabolizzare, ancora mi ci vuole un po' di tempo. Ti stai preparando, però. Sto preparando mentalmente. Ma cosa fai? Poi torni alla Roubaix? No, assolutamente. No, vado in bici per divertirmi. Tra i ciclisti contemporanei chi ti assomiglia di più, secondo te? Italiani e non? Ma italiani è anche difficile fare un paragone, perché sono tutti giovanissimi, quindi non è difficile percepire. Però per dirti Van der Poel, più mi piace più come stile mio Van Aert, però ecco, Van der Poel è molto più esplosivo, l'altro invece è più pacato, come ero un po' io, sì. Grande forza, però ecco. Pacato, comunque ti ritieni una persona pacata. Un ciclista pacato, una persona, insomma, una persona un po'. Perché qua intorno stanno ridendo tutti. Io vivo. Oggi quando passa il giro hai un po' di amici ancora in gruppo. Sì, si fermano, perché è già passata la Tirreno, da qui è già passata, si fermano. E poi ho Balducci, che è il cambio ruote Shimano, insieme al capo Shimano Italia. Sono il nostro sponsor, va benissimo. Si fermano a prendere il panino, gliel'ho già preparato. A saperlo ci facevamo preparare una musette di pici, dovevamo partire prima. Bravo. Grazie mille, Dario. Grazie a voi. Ti lasciamo grazie tornare. Beh, andiamo a farci un panino, non so. Cioè, adesso ci pensiamo. Mario. Grazie. Siamo davanti allo stadio Guglielmo Marconi di Asciano, e qui abbiamo incontrato Paolo Valdambrini, che sono il presidente dei tartufai di tutta la provincia di Siena. Io sono un tartufai di mestiere, professionista, però la figura del tartufaio è una figura, diciamo così, classica, cercatore di funghi, no? Ecco, il tartufo è un fungo ipogeo, d'altronde, quindi parla. Allora, ci sono varie specie di tartufo, però ovviamente il tartufo più pregiato è il tartufo bianco. Tartufo bianco della provincia di Siena si chiama specificatamente tartufo bianco delle crete senesi, dove siamo adesso, e ha un aroma e un profumo e un sapore inconfondibile, ed è ricercatissimo, appunto. Che costo ha? Allora, il costo oscilla in base alle stagioni, perché i cambiamenti climatici influiscono molto. 2 anni fa si vendeva al pubblico anche a 7.000 euro al chilogrammo. Ah, però. L'anno scorso 4.000 euro al chilogrammo. Ecco, numeri importanti. Però immagino che un chilogrammo di tartufi, quanto ci vuole a trovare un chilogrammo di tartufi? Ecco, il chilogrammo di tartufi ci vuole tanto, tanto tempo. E qui voglio, se mi permettete, fare un'analogia con il mondo del ciclismo. Perfetto. Perché ovviamente è scontato che si svolge all'aperto, all'aria aperta, è chiaro, ma la fatica immensa che fa il ciclista, che è poi ripagata dal vivere e attraversare questi splendidi territori. Il tartufaio fa molta fatica a piedi, dietro al cane, tanti chilometri nel mezzo ai boschi. Strade bianche, strade imbrecciate, come nel caso della tappa di oggi, che sono le stesse strade che il tartufaio percorre prima di infilarsi nei viottoli per entrare nel bosco. E poi l'ultima, questa è importante, la pazienza. Oltre alla fatica, la pazienza e la costanza che il tartufaio impiega nell'addestrare il cane, nel trovare un tartufo e soprattutto per tirarlo fuori, per estrarlo dal terreno. Tanta pazienza, tanta costanza, la stessa che i ciclisti hanno prima di raggiungere il traguardo. Ma un tartufaio è più uno scalatore, un passista, un velocista? Che tipo ci sono di tutti i tipi, come nel gruppo c'è il velocista, c'è lo scalatore, c'è... Tu o lei? Che tipo di tartufaio sei? Io sono uno che fa piano e poi però al momento scatto in salita, sì. Non sono un velocista, no. No. Perché comunque c'è tra tartufai ci sarà un po' di rivalità, che uno sa che in quel punto lì bisogna andare a cercare, bisogna anche giocare un po' d'arguzia per anticipare il rivale. Sì, c'è la mattina, c'è un orario, c'è un calendario, al mattino nascono le strategie. Come nelle corse ciclistiche, la mattina ciclistiche. Si fa il punto. Sì, sì, si fa il punto della situazione. E ci sono rivalità, ci sono forti. E poi ci sono le alleanze, le simpatie. Quindi dentro al gruppo, diciamo, funziona un po' come nel ciclismo, sì. Va bene, direi. No, ecco, una domanda. Dobbiamo parlare, scusa un attimo, assolutamente. Rendiamo merito al tuo cane o ai tuoi. Quanti sono i tuoi cani da tartufo? Allora, giusta domanda è giusta. Poi, perché poi il tartufo lo trova lui, diciamo la verità. Senza il cane non possiamo diventare tartufai. È come l'apripista per i velocisti. Sì, sì, sì. Diciamo così, ci vuole un addestramento e l'addestramento è legato al proprietario. Il proprietario, però, la regola che vale per tutti è che bisogna istituire un rapporto di sincera amicizia con il cane. Come si chiama il tuo cane, il tuo campione, quello che ne trova di più? Allora, io ho Milli, Pippo e Spillo. Spillo è giovane ancora, deve dimostrare quello che vale, ma qualcosa ho già intravisto. Poi c'è Pippo in omaggio a Ganna, immagino. Pippo è un fantasista. Ah, Pippo, Pippo è il numero uno. E poi c'è Milli, la vecchietta che gioca di esperienza. Fantastico. Direi che salutiamo Paolo Valdambrini, il Pogacar dei Tartufai della provincia di Siena. Un saluto senese. Ciao, alla prossima. Beh, è uguale a Bari, si dice uguale. Uguale. Ci vediamo alla prossima tappa. Grazie mille. Ciao. E allora ringraziamo Paolo Valdambrini, il nostro cercatore, simpaticissimo cercatore di tartufi, e anche Giacomo Lucchini di Opera, che si prende cura del complesso museale di Montalcino, che ci ha aiutato a combinare questo incontro lungo il percorso, vicinissimi all'arrivo, col cercatore di tartufi. Cercatore d'oro, praticamente. Sì, sì. Con i prezzi che ci ha detto, mi sa che sì, è quasi un cercatore d'oro. Bene, questi erano gli incontri che abbiamo fatto sulla strada. Prima di partire però abbiamo fatto gli altri incontri a cui vi abbiamo abituati ogni giorno, che sono quelli con i corridori, e vi abbiamo abituato da ieri a una rubrica che avevamo detto che iniziava ieri e finiva ieri, invece la proseguiamo anche oggi, che è la rubrica intitolata Van Hartig Gefeliciteerd, ovvero l'incontro con il corridore che compie gli anni quest'oggi. Ma in kazako come si dice? Non lo so, sei tu quello che sa tante lingue. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao. Andiamo in... Grazie del tuo tempo. Hai corso, Lorenzo, molte corse fredde quest'anno, la Liegi, la Tirreno. Ora che c'è un po' di caldo, finalmente un po' di sole, ti senti un po' più fortunato? Sì, speriamo. Mi piace di più correre col sole e il caldo che con la pioggia, perciò dai, vediamo. Adesso sono qua al giro per fare bene, ecco. Siamo io e Luzenko, ma capitano Luz, e io starò di fianco a lui, soprattutto in una giornata difficile come oggi. Ora, finalmente parliamo della cosa più importante di questo giro, cioè Bologna. Bologna che non passa il giro, ma Bologna tu sei di lì, no? Sì. La salita è l'osteria preferita, meglio se un'osteria lungo la salita. Allora, la salita preferita mia è il Monte delle Formiche, perché la riesco a fare da più parti, c'è cioè la parte più dura, la parte più facile, un po' più lunga, quella più lunga della zona. Osteria, non ti direi osteria, ma ti direi il bar da Camillo, bollicine a Monterenzio. Fantastico. Risposta secca, dalla Morandi o Cremonini? Morandi. Incredibile. Ma ti abbiamo visto in un video di recente cantare con la tua squadra, mettevi Ragazzo Fortunato di Jovanotti, mia canzone preferita, mentre Velasco preferisce una canzone di Cremonini, Scaroni una tamarrata notevole. Gusti musicali, come andate? No, diciamo che sei Ragazzo Fortunato, Renzo Fortunato, bla bla bla, allora richiamato. Poi Jovanotti mi piace, ho scelto quello, però... Come hai sentito prima sul bus, le tamarrate sono all'ordine del giorno. Segui il calcio? Tifo Bologna. La qualificazione in Champions del Bologna equivarrebbe a quale tuo risultato a questo Giro d'Italia? È nei 5 sicuramente. Chi è lo Zirkzee di questo Giro? Aiutami. Deve essere uno un po' estroso, che magari non è il più forte di tutti, ma... Potrei dire Lopez, della Trek. Bella. Particolare, ti direi Lopez della Trek. Bellissima. Ciao. In realtà ci dispiace non aver parlato a Fortunato del suo compleanno, perché è un'informazione che il suo detto stampa Yuri, molto gentile e simpatico, ci ha detto solo dopo l'intervista, e quindi magari anche a Fortunato l'ha detto solo dopo. Sì, magari non lo sapeva neanche lui, vero? No, quindi lo facciamo in differita. Lorenzo, tanti auguri, che in bolognese si dice tanti auguri. Perfetto. Filippo, tu invece hai parlato con... Sì, ho parlato con un corridore con cui volevo parlare da un po'. Ieri Michael Valgren è arrivato secondo, è stato uno degli animatori della fuga, e lo abbiamo visto, è circolato molto un video sui social di una sua intervista a fine corsa in cui era veramente emozionato. E d'altronde Valgren è un corridore che arriva da una storia tosta, diciamo, negli ultimi anni. È un corridore che innanzitutto è legato all'Italia perché ci ha vissuto nei primi anni da professionismo. Ma soprattutto Valgren alla Route d'Occitanie nel 2022 è caduto e mi sono andato a ritrovare la diagnosi, fratturandosi il bacino, lussandosi l'anca, rompendosi il menisco e i crociati anteriore e posteriore. È stato fermo praticamente 6 mesi, pian piano si è ripreso, l'anno scorso la squadra l'ha messo nella formazione Continental, nella formazione giovanile diciamo, e pian piano è riuscito a ritornare ai suoi livelli in un qualche modo, forse non ancora ai suoi grandi livelli che ha toccato in carriera, perché stiamo parlando di un corridore assolutamente importante, ma insomma questo ci spiega forse la sua emozione di ieri, andiamo a sentirlo. Ciao Michael, buongiorno. Ciao. I start in Italian because you're at home, more or less, no? Yeah. My Italian is a little bit rusty, but this I understood, yeah, but buongiorno. You got any other expression in Italian that you remember, maybe you use? You know, I think what I can say in Italy, or sorry, Italian is not something you want to record. It's not the nice words. Okay. But no. Yesterday you were so emotional. Yes. It was an important day for you. What is like? It's like a second career for you. How do you feel this moment? Yeah, you know, for me it's a really big step back in the big league, you know. You feel you're starting a new career at 32. Yeah, kind of, you know, like I still think I have it in me, you know, and now I finally showed it. So yeah, for sure, I had a few rough years, but I believe I have some good results to do. E quindi appunto citavo i suoi esordi italiani, l'ho salutato con un buongiorno, lui dice che questo l'ha capito, ma che il suo italiano è un po' arrugginito, quindi gli ho chiesto se ci sono altre espressioni italiane che ricorda o che usa e ovviamente dice che quelle che conosce non sono cose che uno vorrebbe registrare, non sono belle parole. Quindi siamo tornati appunto all'arrivo di ieri, a questo arrivo pieno di emozione, e lui dice che è stato un grande passo, che è stato come rientrare in Serie A. E gli ho chiesto se a 32 anni è come se incominciasse una nuova carriera, un po' si è messo a ridere, l'avrete sentito, poi dice sì, è una specie di nuova carriera, ero sicuro di averne ancora e finalmente l'ho dimostrato. Sicuramente ho vissuto anni duri, ma credo di avere ancora un po' di buoni risultati da ottenere. Quindi gli ho chiesto dove ha trovato le energie e la motivazione per superare tutto ciò. Yeah, you know, like, when you're away from cycling, you just find out how much you actually love it, you know? So when I was away for that long, I was like, oh wow, I really miss this. I want to be back at this circus, you know, because it's a big shit show sometimes, but I love it. I love it. I love being away. I love miss my family, because then I have when I finally get home, the emotions is also so much bigger, you know, the love is so much more. So I think it's a crazy lifestyle, but I cannot see myself without it. You come from the same region as Jonas Vingegaard. I also read that you were working in that fish factory too, no? Mm. Which word would you use with other riders that suffer so nasty crashes to encourage them to come back? Yeah, you know, like, this can happen to anybody, not just in cycling, it'd be normal life, people have injuries or sickness, you know, and I think, you know, it's okay to feel a bit pity for yourself sometimes, but you also have to look at the big picture, and there's always someone that's worse than you, and you have to just keep fighting and believing, and then yeah, things will turn good, you know. Beh, quando sei lontano, dice Valgren, ti rendi conto di quanto ami il ciclismo. Così quando ero lontano ne sentivo davvero la mancanza. Volevo tornare a questo, a quello che lui chiama un circo, dice che è una specie di shit show, usa questo termine che io ho cercato in rete per grande confusione. Non so se Pelacci, tu che sai le lingue, mi confermi. No, cosa vuol dire shit lo sanno tutti i nostri ascoltatori, però questa espressione non sapevo bene come si traducesse. E comunque dice che ama davvero questa vita, gli piace stare in giro, gli piace persino la mancanza della sua famiglia, perché l'emozione del ritorno a casa la rende ancora più grande. E dice, so che è una vita da pazzi, ma non riesco a vedermi senza. E quindi gli ho chiesto un'altra cosa che riguarda Jonas Vingegaard, che viene dalla sua stessa regione e con cui ha condiviso anche il... Vingegaard. Con cui ha condiviso anche il lavoro nella famosa azienda ittica, conferma anche Valgren. E quali parole userebbe per sostenere corridori come Vingegaard che hanno subito infortuni così gravi? E lui dice, è una cosa che può accadere a chiunque, non è una questione di ciclismo, anche nella vita ordinaria ci sono infortuni o malattie, quindi crede che vada bene commiserarsi un po' qualche volta, ma che sia importante soprattutto allargare lo sguardo, rendersi conto che c'è chi sta peggio e continuare a lottare, a crederci, e le cose miglioreranno. Your nickname is Dolle, is correct? Yeah. What does it mean? Nothing basically, it's a factory that builds stairs, where I'm from. Stairs? Yeah, like wooden stairs. in the for houses, like, you know, some like nice round ones, and they were sponsor one of my local football clubs, and we had the sponsor on the back, and then people just started to call me Doll, because it was on my back, you know, not my name but the company, and yeah, I don't know why, just kind of stick with it, you know. Okay, what would be your celebration at the end of this Giro? I have to figure out. Yeah. Any holiday plan? I don't know. No, you know the tour could be a good holiday. You could do the tour. Maybe, you never know. You never know. Because I read that you want to have an holiday with a van with your family. And yeah, you know, like my wife and I, we are thinking about going to explore Denmark. We've never been to the island, or I've been to the island of Magnus Court, Bornholm, but she's never been. It is really amazing there. So, no, but amazing. Thanks so much. Yes. Yeah. Welcome. Bye. Grazie. Bye. Ciao. Ciao. E infine abbiamo parlato del suo soprannome, del significato del suo soprannome, che è Dolle. E lui mi ha detto che in realtà non significa nulla questo soprannome. È un'azienda che produce scale in legno per case, tipo delle belle scale a chiocciola. Ed era lo sponsor della squadra di calcio del suo paese, quindi aveva la scritta sulla schiena. E la gente ha cominciato a chiamarlo Dolle perché leggeva la scritta, lui portava la maglia, evidentemente giocava a calcio, questo non me l'ha detto. E dice, non so come sia successo, ma è rimasto questo come soprannome. L'ultima cosa che gli ho chiesto riguarda i viaggi, perché sapevo che lui ama i viaggi in camper, e gli ho chiesto se ha dei programmi post giro, celebrazioni, vacanze in programma. Dice che non sa bene come festeggerà, che non ha programmi perché potrebbe fare il tour, che a detta sua potrebbe essere una bella vacanza. Non so se tutti i corridori sarebbero d'accordo su questo, però dice, io e mia moglie vorremmo esplorare un po' la Danimarca, tipo Bornholm, l'isola da cui viene Magnus Court, dove non siamo mai stati insieme e sarebbe bellissimo, e quindi, come sentite, deve scappare a firmare e ci saluta. Io non so se la nostra Dani Marta, sei mai stata a Bornholm, che Wikipedia me la definisce isola dei Burgundi. Ma ci sono le fragole, ci sono delle fragole pazzesche a Bornholm. È anche un festival musicale, mi pare, ma lì a quel festival non sono mai stata. E invece la regione da cui vengono Valgren e Vingo, che è la regione del... Sono andato a farmi spiegare la pronuncia da Brian Nygaard, la regione del... Q. La conosci? Io l'avrei chiamata Jutland comunque. Forse il Q è una sottoregione dello Jutland, non lo sappiamo. Comunque ringraziamo Valgren, ringraziamo Fortunato e tutti i corridori che si sottopongono a queste nostre interviste al mattino, quando magari non ne hanno sempre tutta questa voglia, ma ci stanno, e meno male, così ve le possiamo far ascoltare. E vi facciamo ascoltare, ringraziandolo come sempre in anticipo, un corridore che non viene dallo Jutland, da un po' più a sud nel continente europeo. Da chi? No, neanche, viene dalla Lucania, e ovviamente sto parlando del nostro pozzo di scienza, Domenico Pozzovivo, che ci parla della settima tappa del Giro, la cronometro da Foligno a Perugia. La settima tappa del Giro è la prima tappa a cronometro della Corsa Rosa e misura 40,6 km da Foligno a Perugia. La prima parte della cronometro si snoda completamente in pianura. Si parte da Foligno, che è una città famosa per la giostra della Quintana, e a livello gastronomico da notare soprattutto la presenza e la raccolta nel suo territorio del tartufo nero di Norcia, e sulle colline dei Monti Martani poco distanti la produzione del famoso Sagrantino di Montefalco. Superato l'intermedio di Santa Maria degli Angeli dopo 18 km, conosciamo Santa Maria degli Angeli soprattutto per la famosa basilica in cui lascia la vita terrena San Francesco all'interno di una cappella che è tuttora conservata al suo interno, la Porziuncola. Da lì parte una strada che tira a salire fino all'arrivo al centro di Perugia. Il primo chilometro e mezzo è molto impegnativo fino a Casaglia, dopo la strada si fa meno dura, ma comunque con degli strappi anche in doppia cifra, prima della parte finale che è un po' più scorrevole, ci porta fino al centro di Perugia, che conserva le sue vestigia medievali ed è appunto una città molto famosa per gli studenti che la frequentano e per la sua università. E allora, ci teniamo a dire che Domenico Pozzovivo le sa tutte queste cose, non prepara le sue ricognizioni con Wikipedia. La Porziuncola! Sì. Ma le vestigia medievali di Perugia, poetico. Sì, è anche poetico nel suo presentarci queste tappe, sta a noi invece provare a interpretare le sue ricognizioni dal punto di vista sportivo, per quello che possiamo, quindi lanciamoci un po' in un pronostico, vista l'importanza della tappa di domani, se volete anche con un minimo di spiegazione, quindi nome e perché secondo voi? Nelle ultime corse ha dimostrato di andare molto forte, a questo Giro d'Italia non è mai arrivato granché avanti, corre per la Ineos Grenadiers, campione del mondo cronometro, domani vince Tobias Foss. Tobias Foss, sorprendente. Pensavo dicessi Filippo Ganna e invece... Penso che non stia benissimo però Foss, ha qualche fasciatura qua e là. Oggi ha perso anche però potrebbe tempo. Anche aver deciso di tirare un po' il fiato in vista della tappa di... Chi lo sa? Foss forse lo sa. Se c'è una persona indicata a sapere questa cosa è Tobias Svensson Foss, ricordiamo la S di mezzo che non c'è più però, non sappiamo se sì, per è scomparsa questioni a un certo magari punto magari sono dei drammi familiari in mezzo e noi siamo qua che ce la ridacchiamo, per cui non approfondiamo questo argomento. Cronometro di domani, bellissima, 40 km di cronometro, percorso super, vorrei andare a verificare, mi sembra molto simile, forse in senso inverso, forse allora finiva a Foligno quella in cui Dumoulin prese la maglia rosa al Giro d'Italia del 2017, se non sbaglio era una crono più o meno equivalente, già allora c'era Nairo Quintana che a Foligno è sempre celebrato, come ci ricorda Pozzovivo. Io domani mi aspetto che Tadej Pogacar si non si può pronosticare. Sto facendo il pronostico, la mia aspettativa dal punto di vista della corsa, diciamo, mi aspetto che Tadej Pogacar si faccia un bel bagno di shampoo con tutte le sue pinne che spuntano, non so, dal casco da crono forse no, ma dia una bella sassata a tutti quanti, ma non potendo pronosticarlo non so veramente cosa dire. Dico a questo punto fidiamoci del lavoro che ha fatto oggi la Ineos e dico che vince Geraint Thomas. Marta, tocca a te. Bravo, volevo dirlo anch'io. Lo dico anch'io. Perché? Perché anche se oggi vi è sembrato andare un pelino più piano, io ho grande fiducia in Mr. G, per me istituzionale. Allora, vorrei dirlo anch'io perché voglio sperare in un giro aperto per quanto riguarda anche la classifica generale. Un giro finora molto bello, nonostante le aspettative, no, della vigilia, corsa chiusa dal primo giorno, magari lo è, ma ci stiamo divertendo. C'è chi vuole la corsa chiusa, c'è chi vuole la corsa aperta, c'è chi vuole la corsa alta, c'è chi vuole la corsa bassa, non si può avere non tutto. Non si può avere tutto, quindi non dico Thomas per non ripetermi, però rimaniamo tutti in casa Ineos e dico Filippo Ganna, non l'avete detto voi, mi lasciate un pronostico semplice e io lo colgo, assist, gol. Pensa se vince un quarto Ineos, potrebbe, che Magnus Sheffield, sarebbe una rivelazione. Vincono tutti e quattro, dici tu, stesso sì, tempo, dividono la vittoria, no, può essere. Nella crono che citavi, Filippo a 2017, Dumoulin vinse e arrivò secondo Geraint Thomas. E vedi. Chissà. Longevo questo Geraint Thomas, dovremmo segnarcelo per il futuro, perché mi sembra uno che abbia tanto da dare al ciclismo ancora alla sua giovane età. Posso dire una cosa? È più giovane di me. Ho visto da molto vicino Thomas oggi all'arrivo, ha delle belle rughe sul viso, cioè è segnato il viso di Thomas. Magari si vede anche dalla TV, ma dal vivo si nota particolarmente. Fate tu una giornata a pedalare come no, oggi. Figure, no, è e quasi poi vorrei coetaneo. Vedere le tue rughe. Pensa che lui lo fa da 20 anni e passa. Esatto, no, bravo lui, ci mancherebbe altro. Io sento di avere delle nuove rughe solo per aver guidato sulle strade bianche. Ulteriori rughe ci verranno col passare di questo Giro d'Italia. Vedrai alla fine, Marta, in che stato pietoso sarai. Domani noi ci... Però abbiamo quasi mezza giornata di riposo, ce ne andiamo già a Perugia, lì parcheggiamo il mezzo che ci è stato fornito per questo Giro d'Italia dal vento che qui ci ha inviato, con l'amorevole, ricordiamolo sempre, sostegno di Shimano, anche per la squadra tecnica di Shimano domani è una giornata abbastanza di riposo. È un po' cioè, il bello di queste crono qua è che per alcuni bam bam ci si gioca il Giro d'Italia, ma per una buona metà del gruppo, secondo me, e anche tanti altri che stanno intorno alla corsa, è una giornata in cui un po' ci si rilassa. Ne abbiamo bisogno, siamo stanchi, andiamo verso la cena. Tutto il resto che non vi abbiamo detto lo trovate nella newsletter di Alvento e sui nostri social, sia di Alvento che di Bidon. Telegram, Instagram. Gruppi Telegram sempre utilissimi, l'acrostico sta riscuotendo grande successo. È già diventato quasi un concorso a premi, così come c'è... Senza premi, però. Senza premi, il premio è sempre la gloria. E Così. Anzi, i premi, se volete farli, regalarli a noi, ricordatevi le cornucopie, che un intero giorno senza cornucopie. No, infatti, noi siamo due notti, abbiamo l'indirizzo di dove siamo a Perugia, riusciamo a recuperarlo al volo, così lo diamo ai nostri ascoltatori. No, che poi le fan di Pelacci ci insidiano. Giusto, va bene. Allora, le cornucopie, poi scriveteci in privato e vi diamo esatto, tutti i dettagli. Adesso non lo trovo. Chiudiamo dopo tutta questa allegria con un altro tono, ma in realtà anche con il sorriso sulle labbra, come sentirete, perché oggi cade il 13° anniversario della scomparsa di Wouter Weiland, scomparso sulle strade del Giro d'Italia, come ben ricorderemo, come ricorda il Giro ogni anno, lo ricordano tantissimi striscioni, lo ricorda il Giro avendo ritirato il numero 108, che era il suo numero di gara. L'ha ricordato questa mattina anche quella che è stata la sua ultima squadra, ai tempi si chiamava Leopard, attualmente è la Lidl Trek, che è andata a firmare con tutti i corridori e tutto lo staff con una fascia nera in segno di lutto. Alla Lidl Trek quest'anno come direttore sportivo c'è anche Jaroslav Popovic, che quel giro lo stava correndo, che Wouter Weiland l'ha conosciuto come collega. E alle parole di Popo lasciamo la conclusione di questa nostra puntata con il nostro ricordo e il nostro omaggio a Wouter Weiland. A domani, ciao. Io pelle d'oca perché quel giorno lì sono stato lì. Sì, è stata una grande perdita per ciclismo, ma anche per tutti, sicuramente per la famiglia, è stato un shock. Però il suo ricordo è molto bello, è pieno di amore, tutti vogliono bene a Wouter Weiland. Ma sì, era sempre un persona sorridente, uno che scherzava sempre, era un brava persona. Mi piace vedere che comunque stai sorridendo, vuol dire che comunque il ricordo... Questa cosa, lo sai, è dispiacere che succede, ma dopo rimane sempre nel cuore e rimane nel spirito. Grazie mille. Prego.